Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. We will follow two simple rules: buy American and hire American. They pulled in just behind the bridge. He lays her down, he frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? Allora, Alberto Forchielli del fondo Mandarin Capital Partners. Per la finanza, per l'economia, questo discorso cosa vuol dire per le nostre tasche? Ah, brutto. Com'è brutto? Brutto, brutto. Buy America vuol dire protezionismo, quindi vuol dire tariffe, erosione del potere d'acquisto e probabilmente una recessione. Hire America vuol dire la fine dell'America aperta, che attrae talenti. Sotto l'aspetto economico un disastro. E per l'Italia che conseguenze ci sono, Forchielli? Oh, per noi fa poca differenza, tanto siamo così nella merda. Io ascolto l'amico bolognese Forchielli, che ho scoperto oggi esistere. Non so con quale autorità dica queste cose catastrofiche, che sono molto graziose, poi è bello, pelato, bolognese, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? Ma che cazzo ha fatto? Ma dove cazzo viene? Forchielli. Ma qual è il suo fatturato? Ma non ride! Ma quale economia sostiene? Ma che fa ride? Ride perché è un morto di sonno che non ha mai fatto un cazzo per Buono. Quanto è grasso! Chi cazzo è Forchielli? Non ti faremo mai. Ma dove cazzo l'hai tirato fuori? Forchielli! Ha trovato Piazza Pulita! Forchielli! È l'ultimo morto bolognese che sentenzia sull'umanità! Ma vado a fare in culo! Zitto, Forchielli! Basta, vada basta, a scopare! Basta, ti diverti di più! Basta, avrà scopato anche poco! Uno che scopa poco! Ehi! Basta, solo ho detto la regia! Signori! Signori Vittorio Sgarbi e Alberto Forchielli! Da che parte state? Forza, amici del Parlamento! Avete capito? Vittorio Sgarbi, come ti permetti? Come ti permetti di trattare così il nostro Alberto Forchielli? A Matrix! Porcaccia miseria! Subito ho lanciato su Twitter: non toccate Forchielli! Hashtag non toccate Forchielli. Beh, Sgarbi però è sempre... Prima sembrava gli lisciasse il pelo e poi, ma che cazzo? Albertone, noi saremo sempre dalla tua parte, eh? Noi saremo sempre dalla tua parte. Nessuno tocchi i Forchielli. Mannaggia, ragazzi, io non lo so. Alino, sai cosa? Beh. Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi, io scrivo Squinzi. Beh, no, questa è vecchia. No, non so capirti. Poi lo scrivo, glielo spiego Squinzi. Questa è vecchia, adesso deve scrivere a Boccia, non a Squinzi. Vabbè. Ma noi staremo sempre dalla parte di Forchielli. Altro che Sgarbi, ma chi è? Ma chi è Vittorio Sgarbi? Ma chi è? Ma chi è sto Vittorio Sgarbi? Ma pensa te. Allora, sono le 6:34 minuti. Buongiorno signori, la 195esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. È cominciata anche la quinta settimana decisiva per la nuova legge elettorale. Ci siamo. C'è una infreddolita aurorina, mamma mia. Questa cosa è vergognosa. Aurora, Aurora buongiorno, Lussana, Milano. Buongiorno, buon anno. Un caro saluto a te, a Milano, un caro saluto a tutti i caldaisti manutentori all'ascolto. Cosa è successo? Si è rotta la caldaia. Ma sì, va bene. Noi padani resistiamo. Arriva il caldaista, però. Vedi, a sposare un parlamentare invece che il caldaista. Prime piccole lamentele nei confronti del Molteni, che sa soprattutto di leggi, ma col cacciavit in mano, due bulloni, vedi. Niente, troppo intellettuale. Ma anch'io. I maschi che sanno girare i bulloni. Niente. Invece un bel caldaista in salopette che ti. Lo sto aspettando qua sull'uscio. Quando arriva, sono ostie. Col mattarello sull'uscio. Va bene. Aurora Lussana, è infreddolita. Guarda, queste cose non succederebbero se tu fossi nella tua capitale estera preferita, Roma. Voglio salutare, infatti, Marione Adinolfi. Ma che noia. Ma un campionato finito da settembre. Cioè, che noia è questa? Però abbiamo inventato la nuova Juve con 4 punte. Dai, è stata bella proprio ieri. Bella. Abbiamo messo dentro tutti i gioiellini. Mandzukic, abbiamo messo campo dal primo minuto, dai, siamo proprio forti. Dopo ti chiedo il pronostico per mercoledì. Allora, caro Albertone, volevo dirti che arrivano i primi due messaggi appena iniziata la trasmissione. Il primo è dall'Australia, il nostro ascoltatore che sta raccogliendo vongole in questo momento e ci ascolta, e poi ci saluta da San Juan, Puerto Rico, un altro ascoltatore. Ma sono due latitanti, Matteo, ora trasferito da Mandello dell'Ario a San Juan di Porto Rico. Vabbè, questo spacciava di smettila. Fai il ricercatore in Ohio. No, di droga, dai, guarda che. Ma porca miseria, mamma mia, ma smettila, sono il nostro prezioso ascolto dall'estero. Allora apriamo il parlamento. Sono bravo con le lingue comunque. Sono bravo con le lingue, in che senso? Sei portato, si vede. Ma non so, perché ho detto... È una bella pronuncia. Perché ho detto Ohio? Sì, hai detto bene. La Juve ha vinto, l'Atalanta ha vinto il campionato di calcio. Bravo. E sono meglio i cori. Vabbè, dai, ha vinto l'Atalanta, ha vinto la Juve. La domenica di campionato è finita così per me. Apriamo il Parlamento, dai, che. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè, che va bene così. Forza, gente. Allora, Albertone, non lo so. Albertone, si chiama Albertone, Marione, perché ho Forchielli in mente. Marione, qui non lo so di cosa vuoi dire anche la tua su Rigopiano. Io non ne posso più. Nel senso, anche voi su Rigopiano, mamma mia, è totalmente tragica la situazione. No? La polemica sul soccorso, l'ora. Oggi ho letto l'email. La situazione era incredibile lì, insomma, non solo a Rigopiano, ma il complesso della situazione era catastrofica e surreale in tutto l'Abruzzo. Qualcuno ha sottovalutato, adesso vedo una messa in croce della povera telefonista che ha sottovalutato l'allarme. Sì, francamente non credo che sarà stata quell'ora di ritardo a cambiare. Bravo. No, voglio spezzare un lancia per questa dirigente che è già finita, fortunatamente non con nome e cognome, sul Messaggero. Avrebbe risposto al quello che ha detto: guardate che è crollato un albergo. Ma sì, dai, sempre questa storia, è tutto a posto l'albergo. Ma non è che era già crollato, peraltro. Cioè, non è che adesso, perché questa ha risposto così in maniera sbagliata, è successa la tragedia. È successa la tragedia perché forse è stato sottovalutato qualcosa prima, quindi adesso assisteremo alla messa in croce di questa povera dirigente con nome e cognome che aveva la vita distrutta, colpa sua, come se fosse colpa sua per tutto. Però insomma, che dobbiamo dire, è davvero, questa è una tragedia. Adesso si è spostato il maltempo nel palermitano, ci sarebbe un morto anche per le piogge. Vabbè, ma lasciamole lì queste cose. Parliamo un pochino di politica, cara Aurora. Hai visto che è comparso Gentiloni da Fazio? L'ho visto ieri sera. Sì. No, dai. Aveva la voce un po' svuotata, sai, povero, dopo l'intervento. Mi è sembrato un po'. No, però il Conte lì non molla l'osso. Il Conte. C'ha voglia di durare, dicono. Ecco. Vuole durare. Infatti la questione è questa, ma siamo sicuri che Renzi sarà contento di questa scelta? Sì, ciao. No, sono già in guerra con le nomine, soprattutto per le nomine, ma anche insomma per la durata. Lì Renzi continuerà a giocare a flipper a casa sua, basta. A flipper a casa sua. E cosa vuoi che faccia? Ma. Dove va? Ma. Dove Marione, va? Marione, ma. La partita sarà molto molto dura e complessa. È oggettivo però il dato che se si va verso la legge proporzionale, il punto di caduta non è le larghe intese su Renzi. Questo mi pare chiaro. Gentiloni si sta comportando da perfetto uomo delle larghe intese future, quindi le larghe intese saranno larghe intese su Gentiloni con ogni probabilità. Questo Renzi lo sta capendo e morde il freno e anche tenterà varie manovre per mettere in difficoltà il premier. Certo che passare da Palazzo Chigi alla taverna di casa tua deve essere dura. Deve essere dura, no, umanamente. Io starei meglio in taverna, per esempio. Però... Ma lui no. No, lui no. Era in giro per il mondo, dai, super ragazzo, adesso è lì che... Poi è arrivato Trump, non c'è più l'Obama, è finito un mondo. È finito il renzismo per Aurora Lussana, è finito il renzismo, attenzione. Attenzione. Il tramonto, dai, dove va? C'è ancora il partito con lui. No. Obama non c'è più la Casa Bianca, il suo amico, è dura. No, vabbè, allora però attenzione, perché domani si pronuncia la Corte Costituzionale, momento spiegazione ad Inolfi. Ora ad Inolfi chiarirà a tutto il mondo perché l'importanza di questa decisione in 40 secondi. Forza Marione. Allora, intanto non credo che decideranno domani subito. Bene. Prenderanno altri giorni. Secondo, pare, lo dice il Corriere della Sera oggi, che la Corte Costituzionale rimandi la palla al Parlamento, quindi trattare non decide alcunché, facendo delle correzioni probabilmente sul premio di maggioranza che viene considerato abnorme, come viene considerato abnorme quello dell'Italicum, quindi sostanzialmente passeranno altri mesi prima di sapere con quale legge elettorale andremo al voto. Lo dovrà decidere il Parlamento. Mi pare molto difficile una forma d'accordo in questo momento in Parlamento, se non sulla proporzionale con un mini premio di maggioranza. Che è una legge elettorale che cancella gli ultimi 25 anni di storia italiana, insomma, sostanzialmente. Vabbè, questo quindi, stringi domani? Che? Stringi domani, la Corte Costituzionale dirà vabbè, non va bene il premio di maggioranza e adesso, caro Parlamento, devi fare la legge elettorale. Da lì si ricomincia dalla quinta settimana decisiva per la riforma. Come dice, quella sera non sarà una sentenza autoapplicativa. Autoapplicativa, avete capito, cari ascoltatori? Autoapplicativa. Ma cos'è che si autoapplica in Italia? Niente. Cioè, praticamente diranno. La sentenza sull'Italico, in realtà precedente, quella che era stata fatta sul Porcellum, era invece autoapplicativa, aveva prodotto il Consultellum. Adesso questo sull'Italico invece non sarà autoapplicativa. Cari amici del Parlamento di 24 mattina, ricordate sempre che se non avete capito tantissimo il problema sono loro, sono gli Adinolfi, sono i Mario Adinolfi, non siete voi, sono loro che sono sbagliati, sono loro, non siete voi, loro. Voi che non studiate, non sapete mai la mazza, quello non è sapete. Il problema. Non sappiamo manco la legge elettorale. In tutto questo il buon Salvini chiede ancora le primarie, fissa anche una data, l'8-9 aprile. Ma perché non ti candidi, Aurora? Ma cos'è? Alle primarie. No, comunque, dai, allora, è tutta colpa del Napolitano, nel senso siamo conciati così, che siamo qui, che non ci abbiamo nessuna legge. Ma cosa Napolitano c'entra? Gli ha fatto ma Napolitano fare è il primo che aveva detto dovete fare la, dovete fare la legge elettorale. Gli ha detto fai la riforma costituzionale, e quello la fa la legge elettorale prima di avere la riforma costituzionale. Dai, siamo in un pantano che... Vabbè, comunque, adesso c'è il Trump e farà le domande del centrodestra. Ancora sto Trump. Poi hanno fatto Trump. Visto a Koblenz che si sono riuniti tutti sulla... Ti piace questo Trump, Di la verità. Lo vorresti anche tu, no. Un bel leader che dice italiano, no, assumi italiano, che, allora, ti piace. Allora, è arrivato 20 anni dopo la Liga, perché se uno fa un po' di storiografia della Liga, sono 20 anni che la Liga dice quelle robe, guarda, c'ho qua manifesti, c'ho qua tutto. Marione, di qualcosa, Salvini che è andato da Trump e Trump manco l'ha riconosciuto. Ricordo semplicemente che Trump è nazionalista, la Lega è secessionista, siamo a favore di... La Lussana era per rompere l'Italia. Questo va lì e dice: viva viva l'America! No, era per prima, no, prima la nostra gente, poi ognuno decide. E qual è la vostra gente? La vostra gente che è Cantù, Cantù. Cantù già è estero per la Lussana, sì, ricordiamo. Guarda, è sempre arrivo Massimo all'Alto Lago di Como, esatto. E Massimo giù ad Almine. Ricordiamo che lei è delle valli bergamasche, e quindi a Cantù le rinnovano il permesso di soggiorno ogni 3 mesi. Deve presentarsi dal sindaco che già è all'estero. No, dai. Trump mi sembra lanciato bene, anche perché, scusa, l'economia americana è quella che conosciamo tutti, va rifondata, quindi l'economia globale, ci auguriamo anche Trump leghista, dovevamo sentire anche questa, anzi antesignano del leghismo, il contrario, è arrivato dopo il leghismo. Ci ha copiato, caro Marione. Ma scusa, non ti ricordi gli slogan Compra Padano, però, di Trump? Di Trump? No, perché a questo punto potrebbe essere la Padania dall'Italia. Bye Padan. da Trump, no. Make Padania great again. No, però dopo il traffico voglio chiedere a Dinolfi 2 cose. Hai saputo cosa succede a Ferrara, all'ospedale di Ferrara? Mamma mia, adesso Marione all'ospedale di Ferrara, Marione. Non lo so, che è successo? Lo sai che mandano i moduli, bisogna indicare tutti come paziente. Non si può chiedere se uno è sposato per non discriminare. Le rotto le scatole voi, questa è roba gender. Roba gender, che io non ho mai capito che cos'è. La roba gender, dai, dopo il traffico. Mina, è da anni sto sul posto del traffico, va? Le stupidate che dice Salvini. Le incompetenze del 5 Stelle, la collusione del centro-sinistra e la corruzione del centro-destra. Ma quest'Italia, a chi cazzo gliela diamo in mano? Io sono un immigrato all'Inno Milan, però per questa volta penso che Salvini abbia totalmente ragione. Io, Maria, sono Anacleto, è sabato, apro il giornale e vedo questi, perché i francesi ti hanno fatto sentire un mese di fila l'inno della Francia. E non ci possono via per il culo loro, quelli spocchiosi, arroganti, prepotenti, mi hanno rotto coglione, mi fa sentire più una parola in francese, Ti scancello il canale. E quando sento il signor Salvini con tanto di doposci ai piedi dire togliamo i soldi ai migranti e diamoli ai terremotati, quello che mi viene è un conato di vomito, perché lui sta attaccando quel patrimonio, sta criminalizzando la solidarietà, mettendo in conflitto solidarietà tra di loro che non c'entrano assolutamente nulla. Questo, cara Aurora, era il tuo amico Vauro. Solito, vabbè, così, quelli sono i professionisti dell'accoglienza, vabbè. Però è la politica di distribuzione delle risorse, come allocare le risorse. Se io ho 1 euro decido se darlo ai terremotati o a quelli che sbarcano. Non è che è proprio esclusivo, cioè o uno all'altra parte. Milan, se hai lo Stato, hai 100 euro, come li spendi lo decidi te. O li dai terremotati, magari ne puoi dare 80 ai terremotati e 20 all'accoglienza. Se ce ne dà 80 ai terremotati, no, 80 agli immigrati e 20 all'accoglienza. Il grande esperto di bilanci, Mariona Dinolfi, che ci dice dello Stato. Che sono 10 miliardi di danni fatti da questa... Così c'è scritto oggi, sì. Questi numeri sono numeri molto, molto impressionanti. Sì. 20 quindi... miliardi alle banche, sì, 10 miliardi voglio vedere come arrivano questi danni qui. Vabbè, allora... Gentiloni pare che abbia detto l'Unione Europea capirà, quindi chiederemo. Vediamo, insomma, hanno capito sui 20 miliardi a volte pazzi, vediamo come succede. Però a Ferrara, Cari amici, a Ferrara, questo è materiale per Marina Dinolfi, eh? A Ferrara non si può chiedere ai pazienti dell'ospedale, anzi vanno definiti così, paziente neutro, vedi Marione, paziente, neutro. Ma perché roba per me? Non ho capito, centro di croce, che è successo? No, perché non si può chiedere se uno è sposato, proprio perché, insomma, perché? Magari... E perché magari... Perché c'è la privacy, c'è l'amante, che c'è? Non lo so, appunto, magari uno è gay e... Che me frega a me, ma facessero come gli pare. No, non lo so, c'era questa polemica sui giornali oggi, c'era sul Giorno. C'era una polemica sui giornali, non sul Giorno, esiste ancora sto giornale. Vabbè, ma smettila, c'è un'altra polemica invece alla Spezia, allora vediamo se questa ti piace. Un prete filo gay, figuriamoci se non mi tiravi fuori filo gay. Ma che l'hanno tirato fuori i giornali, c'è un prete che ha firmato un appello a favore degli omosessuali e quindi il vescovo l'ha un po' bacchettato e mi pare il minimo, insomma, che ma dici? Perché? Perché non si può fare, non è che tu puoi entrare al club del golf e dire, capito, adesso io voglio farci qua il rave party, e quello è il club del golf, è un'altra cosa, capito? Se fai il prete, ci sono le regole, leggi il catechismo della Chiesa Cattolica e poi dopo... Capito, ma non è che i preti deve dar contro gli omosessuali? Ma certo non deve dar contro, ma non può dire, mi pare questo è uno che è andato a benedire una coppia, la prima coppia sì, non la puoi benedire, perché c'è scritto nei nostri regolamenti, diciamo, che non si può fare. Mamma mia, ma un po' di comprensione cristiana, però. Ma la comprensione cristiana, cioè se la Chiesa è piena di peccatori, figli di mignotta, a partire dal sottoscritto. Non la Chiesa è sempre piena di peccatori di ogni genere, e l'accoglienza è per tutti. Dopodiché non è che può dire tu peccatore figlio di mignotta fai bene a peccare, non lo può dire. Accoglienza sì, ma benedizione è come l'adultera, cioè l'hai perdonata, ma gli ho detto non peccare più. Certo, vedi come è preparata? Ma io lo sapevo, guarda che Aurora ha fatto il corso prematrimoniale, l'ha anche passato, quindi. E gli è rimasto impressa proprio la frase dell'adultera, guarda che roba. Com'è sta roba? Perché ti è rimasta impressa la cosa dell'adultera? No, perché mi sono informata prima. Ma senti un po', a proposito, Aurora, ti abbiamo lasciato qualche anno fa sulla questione dell'amore panico, le orge, il darsi completamente, l'accezione pan, totalizzante. E come la mettiamo? Senza riserve. Questo no? percorso, a che punto è arrivato? Ma l'amore è quello, donarsi senza riserve, totalmente, totus tuo. Senti, comunque, a proposito lì del gender, anche a Cantù mi fanno uno spettacolino lì del gender. Ma cos'è? No, cioè c'è un cartellone, no, spettacolino del gender, sì, cos'è una compagnia teatrale? Cos'è? Sì, ma secondo me lui lo sa, la Dinolfi, fa fine, mi chiamo fa Alex, fa fine. Sono allora, davanti, Aurora, chiamaci, vediamo, non lo sì, facciamo ecco, fare. Non lo facciamo fare, attenzione, attenzione. No, cos'è fa fine? È ma una cos'è? Rappresentazione teatrale, che c'è un bambino incompreso che dice un giorno sono maschio e un giorno sono femmina, così bambino, per destabilizzare ripeto, un bambino, po' lo sviluppo psicofisico bambino dell'essere. O bambina a questo punto, perché bambino sì, e sono un bambino, il nome una della gender revolution, quella cosa che hanno messo sul National Geographic con 80 bambini da 5 ai 9 anni che vengono somministrati ormoni per prepararli al cambio di sesso. L'ho vista anch'io la copertina, cioè quindi attenzione, perché Marione di Rolf vuol sapere quando è Marione, perché allora, viene... vengo io si mette davanti, si mette, e battuta facile, si mette davanti all'ingresso del teatro e non passa nessuno, e non entra nessuno. Questi qua sono ossessionati, non se ne può più, questi qua è proprio un'offensiva gender spaventosa. E soprattutto prendono i soldini per fare questa roba, e di solito sono cooperative. Vabbè, io voglio, allora, adesso facciamo sapere la data, a Marione viene a Cantù, è incredibile. Sì, cioè, sì, dai, come... che c'è anche il festival della cazzuola, gli facciamo mangiare un po' di cazzuola a Marione. Come si fa? Direttivo le facciamo. Sì. Si mangia a pranzo e si blocca uno spettacolo alla sera. Sì, alla sera. Allora, io devo salutarvi. Mi raccomando, non toccate Forchielli su Twitter, mettetelo così. E poi soprattutto vorrei lanciare, se siete di Cantù e zona e siete idraulici, particolarmente caldaisti. Cara Aurora, come facciamo a dire? Sono magari anche un po' giovani e tanti, né? No?